sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Da mezzanotte, ora nella quale Mahmood mi ha mollato all'ingresso dell'aeroporto di Teheran, ormai avrò passato 4, 5 o 6 controlli di sicurezza. E ora l'ennesimo. Davanti a me ho una coda interminabile di uomini che, uno alla volta, entrano in una specie di cabina elettorale. Sono Renato, vivo a Lodi, ho 55 anni, separato, con due figli ormai grandi. Sono il responsabile della filiale italiana di un grande gruppo multinazionale nel settore elettronica ed elettrotecnica industriale. Da sempre appassionato di viaggi e di immersioni subacquee, e molto meglio se le due cose sono abbinate. Era il 2005 e per la prima volta arrivavo negli Stati Uniti da solo. È vero che non ero un ragazzino, avevo 29 anni e tutti mi avevano avvisato del fatto che alla frontiera, lì all'ingresso, quando fai vedere il passaporto, mi avrebbero chiesto qual era il motivo della mia visita e io avrei dovuto dire per vacanza, per turismo, ecco, for tourism, questa era la definizione, ed era che era il motivo per cui ero lì, tra l'altro. Arrivato alla frontiera mi trovo davanti l'officer che mi chiede perché sei qui. E io gli dico per turismo. Lui non mi guarda e mi fa la stessa domanda, però un po' diversa: qual è la ragione della tua visita negli Stati Uniti? E io gli ripeto: per turismo. Niente, lui continua a scrivere qualcosa e me lo chiede un'altra volta: come mai sei qui? E a quel punto io non penso che lui sia ostile, penso che non ha capito cosa gli sto dicendo, cioè penso che il mio inglese sia pessimo, come effettivamente era ed è anche tuttora. Allora gli spiego, guardi, sono partito dall'Italia perché vengo qui 2 settimane in vacanza e gli racconto una specie di storia, vengo qui da solo, spero non ci sia problema se sono qui da solo. E lui mi dice ok, come dire, vabbè sì, ho capito, non mi rompere più le palle. E poi mi dice una roba tipo: ma perché non si sta in Italia? Per caso non si sta bene in Italia? Solo poi col tempo ho capito che di fatto cercano di capire se tu vuoi andare a vivere lì, come se tutti volessero andare a vivere lì. Insomma, quella è stata probabilmente la frontiera più difficile che ho dovuto attraversare, forse perché non ho attraversato delle frontiere particolarmente complicate. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è Voi Siete Qui. Ogni giorno raccontiamo una storia, oggi raccontiamo la storia di Renato, che si è trovato a dover attraversare una frontiera abbastanza difficile. Era all'aeroporto di Teheran e soprattutto era il 1980, anno abbastanza caldo, era l'anno di, come si chiama il film, Argo, l'anno in cui vengono presi degli ostaggi nell'ambasciata americana. E la sua storia, altro che qual è il motivo della tua visita, è molto più complessa. 349-238-6666 se avete varcato una frontiera molto complicata, o il profilo Facebook, come dice Liliana: dalla Polonia all'Austria passando per la Cecoslovacchia, era l'81, mi mancava il visto di transito per la Cecoslovacchia e ho perso 2 giorni per ottenerlo. Allora c'era ancora la cortina di ferro e c'era poco da scherzare. 349-238-6666. Ovunque voi siate adesso, in auto, a casa vostra, nel vostro ufficio, cancellate tutto. Immaginate di essere all'aeroporto di Teheran, aeroporto Mehrabad, nel 1980, ed è piena notte. Teheran, aeroporto Mehrabad, luglio 1980, ore 3:45 del mattino. Che cosa ci faccio qui? Semplice. Finalmente sto tornando a casa. Sempre che questi energumeni barbuti, che si fanno chiamare Pasdaran, i guardiani della rivoluzione, che girano per le sale d'attesa dell'aeroporto con gli AK-47 a tracolla, come se fossero degli ombrelloni da spiaggia, me lo consentano. Dopotutto sono italiano e il nostro governo non ha intrapreso azioni ostili, come qui le definiscono, contro il regime. Ma d'altra parte qui non sai mai cosa aspettarti. Strano concetto di regole internazionali. Hai un volo prenotato e confermato, ma loro dicono che la precedenza spetta agli iraniani, anche se arrivano all'ultimo minuto e senza prenotazione. Il povero Mahmood mi ha raccontato che settimana scorsa, per ben 4 notti, ha cercato di far partire un collega e solo alla quinta ci è riuscito, pur avendo tutte le prenotazioni straconfermate. Mahmood è il factotum della nostra azienda a Teheran. Bravo ragazzo, avrà sui 28-30 anni, autista, sbrigatore di pratiche burocratiche per visti, partenze e arrivi. Passa buona parte della sua giornata negli uffici pubblici. Qualunque cosa tu abbia bisogno, lecita e a volte anche poco, illecita, per esempio una bottiglia di alcolici, quando sei a Teheran, chiedi a lui. Quegli anni in Iran erano anni per gli stranieri, secondo me, assolutamente di terrore. Non dimentichiamoci che erano gli anni in cui lo Shah era appena stato cacciato, Khomeini era appena arrivato, avevano preso in ostaggio i funzionari dell'ambasciata americana a Teheran. Tuttavia, essendo italiani, noi non eravamo coinvolti in queste, diciamo, in questo odio, anche se ti guardavano sempre con diffidenza, ti guardavano sempre con così un certo sospetto. In ufficio erano stati molto chiari: evitare nel modo più assoluto di viaggiare o semplicemente uscire da luoghi considerati sicuri, quali uffici, cantieri, case, da soli. Dopotutto, nell'ambasciata americana ci sono ancora 50 persone circa, e gli iraniani si sono ancora più incattiviti con gli occidentali dopo il disastro avvenuto nel tentativo di liberarli da parte dei corpi speciali americani. Intanto mi trovo nell'ennesima coda interminabile, ennesimo controllo. Da mezzanotte, ora nella quale Mahmoud mi ha mollato all'ingresso del terminal, ormai avrò passato 4, 5 o 6, non ricordo nemmeno più bene, controlli di sicurezza. E ora l'ennesimo. Davanti a me ho una coda interminabile di uomini che, uno alla volta, entra in una specie di cabina elettorale, solo un po' più grande, e dopo qualche secondo o minuto, dipende da non so chi o non so cosa, escono. I cartellini degli orari dei voli, quelli della Solaria C di Udine, con il loro continuo ticchettio e frenetiche giravolte, continuano a dirmi che il volo Swissair delle 8:30 del mattino per Zurigo è confermato. Boh, speriamo. Intanto il tempo passa. E ora? Sta succedendo qualcos'altro. Perché uno dei tanti barbuti sta prendendo a calci il sacco di juta di questo povero davanti a me? Giuro, mi fa una gran tenerezza, più vecchio del mio amatissimo nonno, con gli occhi lucidi, penso più della rabbia che da un effettivo pianto, sta raccogliendo pistacchi secchi, uno ad uno, che si sono distribuiti per metà della sala. Lo aiuto, non posso farne a meno, e lui mi guarda, mi sorride e mi farfuglia qualcosa in farsi. Il barbuto mi guarda male, io ovviamente non abbasso gli occhi, ricambiando lo sguardo ostile, cercando di essere più cattivo e arrogante di lui. Alla fine se ne va, con passo strascicato, percorrendo tutta l'interminabile fila che si è formata dietro di me, cercando chissà cosa in mezzo alla gente. Now that you've dropped everything you can live without, but got me so, so wrong. Intanto si è fatto il mio turno di entrare in quella specie di cabina elettorale. Anche se ho dovuto bloccare un iraniano che stava tentando di fare il furbo saltando la coda e passandomi davanti. I furbi esistono ovunque, non solo in Italia. Intanto incontro due barbute all'interno. Please, get undressed, mi dicono. Cosa? Mi devo spogliare. Also your shoes, anche le scarpe. Tolgo le scarpe, la camicia jeans, i jeans, rimango in mutande e calze, appoggio la mia borsa da viaggio sopra uno sgabello. Uno dei barbuti, senza chiedere nemmeno il permesso, la ribarta sopra un tavolo. Immediatamente si fionda sulla mia macchina fotografica Pentax ME Super, con un'aria trionfante del tipo «Eccoti qua, ti ho preso in castagna». Lo guardo e gli dico «Please, look my passport». Il tuo collega di Bandar Abbas ha scritto il modello e il numero di serie della macchina fotografica sul visto. Con una evidente delusione stampata in faccia, dopo aver letto quei ghirigori scritti sul passaporto e confabulato con l'altro, che evidentemente deve essere il suo capo, molla la macchina fotografica e prende la scatola vuota, perché me lo sono messo al polso, del Rolex Datejust. Penso, ti spacco la faccia, quello è il regalo per mio papà e non lo tocchi. Già immagino la faccia orgogliosa di mio padre, del Mario, che guidando il bus della TM, della linea Milano-Melegnano-Lodi, mostra ai colleghi l'orologio che m'ha regalato il mio fieu che l'ha comprata a Dubai. lui per, penso, 42 anni, se mi ricordo bene, ha fatto l'autista dei pullman dell'ATM di Milano, quelli che partivano dal capolinea di Porta Romana. Era un tipo abbastanza burbero, poche smancerie in casa, io faccio fatica a ricordarmi un abbraccio da parte di mio padre, io sono comunque assolutamente convinto che mi ha sempre voluto un gran bene, assolutamente. Il tizio molla anche la scatola dell'orologio, stranamente senza dirmi nulla, e perde completamente interesse per tutto il resto del contenuto della borsa. La sua attenzione ora è rivolta alle mie scarpe. Le tocca, le tasta, controlla e prova a svitare il tacco per cercare chissà cosa, un intercapedine, un nascondiglio. Non trovando ovviamente nulla, rivolge la sua attenzione alle cuciture dei miei jeans e le controlla minuziosamente partendo dalla cintura per tutta la gamba fino all'orlo. Intanto si sono fatte le 5:30 del mattino. Finalmente, fuori da quella specie di cabina elettorale, altra coda per un nuovo controllo passaporti. Ancora. Ma me l'hanno appena controllato. Ore 6:50, seduto di fronte alle vetrate del gate, vedo il DC-10 con la croce bianca in campo rosso. Gli svizzeri non mi sono mai stati particolarmente simpatici, però questa volta è diverso. Ore 7. Che strano, stanno già chiamando il volo. Il gate è aperto, la gente si sta accalcando. E vai, ci risiamo. Altro controllo passaporti, altro controllo bagaglio a mano. Ecco perché hanno aperto tanto prima. E facciamoci anche questa coda. Intanto però il funzionario della Iran Air che ho davanti al banco del gate non mi fa passare subito, come ha fatto con tutti gli altri passeggeri. Sta digitando furiosamente sul computer. Il barbuto con l'onnipresente Kalashnikov, ovviamente, quello che gli sta a fianco, si sta innervosendo. Strappa di mano la lista stampata dei passeggeri. «Your passport!» mi chiede in malo modo. «E che ti ho fatto?» penso. Per l'ennesima volta mostro il passaporto. Viene guardato, analizzato, girato e rigirato, minuziosamente controllato. Me lo ributta in mano ancora una volta in malo modo. Salgo a bordo e dopo tanto tempo vedo un sorriso. Il sorriso di una ragazza carina in divisa Swissair. Posto 12C, corridoio. Detesto sentirmi bloccato vicino al finestrino e non potermi alzare quando voglio senza disturbare i miei vicini. Portelloni chiusi, avvio motori, rullaggio, decollo. Sono quasi a casa, finalmente. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord have mercy on my wicked son. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. Sembra quasi un attore, ha un'espressione piuttosto intensa, quantomeno nella foto che ci ha mandato Renato, che trovate sul nostro sito, anche perché ha la camicia scura, è quello che fa un po' attore, però ha dei bei capelli bianchi, gli occhi chiarissimi, insomma, essendo mi pare di capire single, se fossi una donna di questa età, un occhio su Renato ce lo butterei. Pronto Renato? Buonasera. Buonasera, come stai? Ciao. Molto bene, grazie. Scusami, ho detto bene che sei single in questo momento? Sì, sono separato. Okay, che non vuol dire per forza che tu sia single. Ufficialmente sono single al momento. Va bene, perfetto. Preferisco non farmi i fatti tuoi, però ci finisco sempre in mezzo in quella roba lì. Mia mamma mi dice sempre, ma che domande fai? Ma cosa chiedi ste robe? Ma lascia stare. Renato, ma a me ho sempre ragione. Dove sei? Nel mio ufficio in questo momento. Perché tu lavori per una grande multinazionale, dicevi, giusto? Adesso lavoro per una grande multinazionale. All'epoca del racconto lavoravo per un'impresa italiana, okay. Una importante impresa italiana che aveva un sacco di cantieri all'estero, più o meno in tutto il mondo, e ho cominciato all'età di 19 anni, 20 anni, appena finito la scuola, a girare per il mondo per cantieri. Quanti posti hai visto esattamente, Renato? Faccio fatica a ricordarli tutti, diciamo tanta Sud America, tantissimo Nord Africa, Medio Oriente, Golfo Persico, Estremo Oriente, tanti. E c'è un posto che ti è piaciuto particolarmente, addirittura da pensarci, boh, qui ci vivrei? Assolutamente l'Argentina, Sud America, io ci ho passato quasi 4 anni della mia vita, in Argentina in particolare, ma poi viaggiando per tutto Sud America, perché ogni tanto arrivava la telefonata. Io all'epoca facevo il tecnico di assistenza su apparecchiature elettroniche, arrivava la telefonata dall'ufficio, da Milano, e tu sei in Argentina, macchina e dici guarda c'è da andare in Venezuela che in questa centrale elettrica si è guastata una macchina, quindi devi andare a ripararla, piuttosto che in Brasile, piuttosto che in Ecuador, piuttosto che in altri posti. Ma esistono ancora figure come la tua oggi che girano così tanto per il mondo? Dei tecnici, giusto? Di fatto eri un tecnico all'epoca. All'epoca ero un tecnico, sì, facevo tecnico d'assistenza, quindi installazioni, messe in servizio, riparazioni, e siccome nel mio ufficio ero l'unico che all'epoca parlava tre lingue discretamente bene, facevo anche corsi di istruzione poi per il personale su queste macchine. Invece mi sembra di capire adesso sei un super capo. Diciamo che adesso ho fatto un po' di carriera e sono responsabile della filiale italiana di un gruppo multinazionale. Cioè, ad esempio, hai una segretaria? Sì. Beh, insomma, questo parlavo ieri con un amico che lavora per una grande multinazionale farmaceutica, mi dicevano le segretarie ormai solo i capi ce le hanno, cioè hanno sono stati tagliati. Non si chiamano segretari, si chiamano assistenti. Ti chiedo scusa. Quindi lui mi diceva c'è un assistente per che so io, per più persone, invece tu ce l'hai solo per te. Io ne ho solo per me, sì, chiaramente. Quindi cioè tu non hai, scusami Renato, tu non hai un'agenda, te la tiene lei? No, io ho la mia agenda personale, sono ancora vecchio stampo, mi scrivo ancora tutto sulla mia agenda, okay. Poi chiaramente lei mi ricorda sempre che cosa devo fare, che cosa non devo fare, chi devo vedere, chi non devo fare. Scusami, sembra una perversione, però veramente la figura, infatti l'ho chiamata segretaria perché sembra una figura di un'epoca passata, adesso giustamente si chiama assistente perché probabilmente ha anche altre mansioni, però trovo incredibile che tu abbia la tua agenda, la tua vita è esagerato, va bene, la tua vita era in mano, in questo caso ai Pasdaran, devo dire, nella storia, però che hai la tua agenda in mano a un'altra persona, quindi ci pensa lei a tutte, no, devo portare il cane dal veterinario, cioè anche queste cose. Non no? Esageriamo, non fino a questi livelli. Ok, ok, solo cose di lavoro, giusto? Certo, assolutamente sì. Quanti anni hanno i tuoi figli invece, Renato? 21 anni, sono due gemelli. Ah, maschi o femmine? Tutti e due maschi. Tutti e due maschi, sono eterozigoti. Ho detto una cosa, guarda, aspetta, l'ho pensata mentre la dicevo, nel senso che si somigliano oppure no? No, assolutamente, sono assolutamente diversi l'uno dall'altro. Ok, ok. Senti, come è andata a vivere una vita come la tua, sempre in giro e con dei figli? Ma all'epoca io non avevo ancora figli, ho iniziato che avevo 19-20 anni, l'ho fatto fino a quando poi mi sono sposato, quindi circa per una decina d'anni, esperienza fantastica che consiglierei a tutti i giovani, a tutti i ragazzi di fare. Renato, ti ringrazio molto per la storia, la chiacchiera, la tua compostezza, nonostante le mie domande a volte fuori luogo. Grazie mille. Grazie a voi. A presto. Ciao Renato. Ciao. E alla fine della storia di Renato, oltre che della chiacchierata con Renato, ho capito che primo, negli anni 80 in Iran conveniva probabilmente andare a piedi. Secondo, la barba può dare la sensazione di scarsa disponibilità. Terzo, dovessi prendere un orologio per mio padre, adesso probabilmente non lo farei passare da Teheran. Quarto, un sacco di pistacchi in aeroporto può essere molto scomodo da trasportare. Quinto, in alcune situazioni la Svizzera può davvero sembrare un luogo amico. E non che non lo sia, ovviamente, non che non lo sia, sono vicini, però sono sempre imparziali. Quella roba di imparzialità a volte è un po' strana. Roberto, aeroporto di Tashkent, in Uzbekistan. L'esercito ha controllato tutta la mia valigia perché avevo delle apparecchiature elettriche che avevo portato con me in fiera e pensavano fossero ordigni esplosivi. È un numero incredibile quello dei tecnici che viaggia per il mondo, si trasporta chissà cosa nelle proprie borse. Voi siete qui, @radio24.it, se siete un tecnico che viaggia per il mondo, il nostro indirizzo per le storie è sempre quello lì, per voi e per tutti gli altri, un episodio che racconti qualche cosa di voi. Scaricate il podcast, ascoltateci dove volete, grazie a Miriam Lucchetti anche per l'acqua che mi ha salvato la vita per via della tosse e della gola un po' messa male oggi, grazie a Paolino Corleoni, grazie a Tiziano Bonini, ma grazie soprattutto a Renato, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Davide, vivo a Castelgombarto, un piccolo comune in provincia di Vicenza. La storia di domani è la mia e parla della malattia più difficile da combattere. Questa è la mia storia e io sono qui.